Ben ritrovati in questo finire di anno per l'ultima puntata di Colonna Sonora, l'ultima puntata per il 2021 ovviamente, la puntata natalizia, in cui finalmente potremo fermarci un attimino, rallentare e raccontare un po' la realtà in cui è compresa Radio ZM. Come forse non tutti sanno, infatti, la radio è uno solo dei mille progetti che il collettivo ZAM propone. Il collettivo ZAM è acronimo di Zona Autonoma Milano, uno spazio occupato con la doppia K per forza, è autogestito, in cui si fanno cose belle e soprattutto si condividono un sacco di idee. In studio con me Chiara, in collegato da remoto Elena e Giacomino, a raccontarci di ZAM come una bella favola natalizia o di fine anno. Ragazze e ragazzi, benvenute tra virgolette. Oggi sono io a sentirmi un po' l'ospite e se per voi va bene finirei a sentirmi metronomi e iniziamo con l'intervista. Yes. Yes. Let's go wake up the children to tell them all about it. About it. How you appear in color and left no doubt about it. Bene, ragazze, eccoci qua. Eccoci qua. Tra l'altro sono molto... Ciao. Ehi, c'è un po' di ritorno. Spero che sia solo in tutto. Tra l'altro è un sacco di tempo che non vengo in radio. Sono molto... Mi mancava molto questo quarto di mondo. È fantastico, la radio è fantastico. Dunque, ragazze, bene, iniziamo questa intervista in cui, ragazzi, perché... Siamo pari, oggi siamo due. Innanzitutto, qual è la vostra storia e come siete finite qui oggi? Nel senso, qual è il vostro percorso in ZAM prima di raccontare ZAM? Siamo finiti qui innanzitutto perché ci hanno sgomberato nei precedenti spazi, no, scherzi a parte. Io personalmente arrivavo da un'esperienza politica precedente che poi ha dato, diciamo, vita al collettivo ZAM. Questo ormai, da tornare indietro al 2011, il 29 gennaio, data dell'occupazione, della prima occupazione in via Olgiati, e da lì diciamo che è un po' iniziato tutto quello che è stato il percorso di ZAM, al quale precedentemente c'era stata una TAD in quello che i più adesso conoscono come l'attuale, come quello che era Macao, ma che venne occupato per tre giorni da da quello che sarebbe stato il futuro collettivo ZAM, e insomma da lì poi è nato insomma tutto quello che è stato il percorso, passando poi attraverso 24 maggio piuttosto che lo spazio Forma, per poi arrivare in via Sant'Abbondio, sono ormai 8 anni fa, sempre chi. Questa è una storia, riassunto di 10 anni di storia in pochi secondi. Vabbè, i dati più importanti, diciamo. Si può... Vabbè, quindi, io da mio vi dico, ZAM è uno spazio bellissimo, nel senso, per chi non l'avesse mai visto, dovremmo forse pensare a una raccolta fotografica e condividerla, perché veramente ha degli spazi di genialità ed è strutturato per moltissime attività. La struttura di ZAM, prima di essere occupata, che cos'era? Posso rispondere io. Perché... Allora... Vai, Chiara, spiega. Sì. Allora, la prendo larga, così prendiamo anche l'occasione per parlare un po' dell'occupazione come pratica. Nel senso che l'occupazione come pratica mira alla riapertura e restituzione al pubblico e alla cittadinanza di spazi abbandonati, e ciò non di meno evidentemente chiusi, e quindi inesplorabili e inattraversabili dalla gente. Quindi l'idea nostra è sempre stata quella di prendere appunto degli spazi che avessero avuto in qualche tempo precedente delle funzioni e che in questo momento non ne avevano, e che quindi noi avremmo riempito di tutti i nostri contenuti. Tutto questa premessa per dire che questo luogo prima era un comando dei vigili urbani, esattamente. No, e era anche un dopolavoro in realtà, nel senso che a sua volta diciamo era diviso in due parti. Fondamentalmente la parte diciamo superiore in cui ci troviamo in questo momento era il comando dei vigili, effettivamente, che è stato dismesso col confluire dei vigili urbani nella zona di Tibaldi, e che quindi è stato poi chiuso per lungo tempo. Le zone sottostanti, quindi piano terra e meno uno, erano invece un centro ricreativo, fondamentalmente un che si chiamava Circolo Carlo Porta, e che era un po' il dopolavoro, fondamentalmente un po' dei vigili, ma anche un po' degli sciuret di zona. Ci sono anche delle foto molto graziose, tra l'altro. Infatti si riconosce un po' la struttura, cioè nel senso tutta la parte di bar immagino che fosse già... Sì, esattamente. Okay. Perché proviamo a descrivere ZAM per chi non ci fosse mai stato. Allora, ZAM è disposto su più piani, abbiamo una sala centrale dove avvengono buona parte delle attività, diciamo del piazzo e delle attività di assemblee di questo spazio, e che ha anche un grazioso bar. Al piano sottostante abbiamo uno spazio concerti, una polisportiva con una bellissima palestra animata fra gli altri da Elena, e una acciaieria, quindi una palestra d'arrampicata. Salendo ai piani superiori abbiamo invece un laboratorio di hip hop con relativo studio di registrazione, una sala prove di teatro, uno spazio polifunzionale studio ora a club, un laboratorio artistico, una radio dove ci troviamo evidentemente, e sala teatro, non mi ricordo se l'ho detto, e in cima saliamo fino al tetto, perché troviamo dei bellissimi pannelli solari che al momento alimentano le attività di questo luogo. Va bene? Sono stata abbastanza lunga. È anche uno spazio bello labirintico, nel senso che entrandoci poi le scale, tutte le sale sono veramente belle da scoprire. E quanto tempo è rimasto abbandonato prima di ritrovare una sua nuova vita? 2003 forse, 2000... mi sembra che nel 2000, fra il 2003 e il 2005 abbia dismesso le sue attività. Il comando dei vigili. Precedentemente il circolo che ha fatto, precedentemente. Sì, forse. Tra l'altro c'era stata anche tutta una. Cioè, quando parliamo di ZAM parliamo anche di un altro spazio che poi di fatto non è stato menzionato, ma che è il parco. Ah beh, certo. Il parco autogestito, che è parte integrante di ZAM, che peraltro rappresentava anche un altro, tra virgolette, spazio occupato, nel senso che quello era il vecchio parcheggio dei vigili, per cui nel senso quando siamo entrati qua dentro abbiamo preso sia lo spazio fisico, quindi ZAM, che il parco che era di fronte a ZAM, dandogli comunque una nuova vita attraverso progetti di autocostruzione piuttosto che orti, fitodepurazione e quant'altro, quindi tutta una serie di cose che hanno diciamo restituito uno spazio più fruibile alla collettività e alla comunità che è fronte a ZAM, che vediamo anche in diverse occasioni prendersi cura di questo luogo, magari portando delle piante piuttosto che venendo a fare le iniziative di propria spontanea volontà come picnic, feste o quant'altro, quando, adesso, soprattutto quando si può stare all'aria aperta in questi ultimi mesi. Un po' meno. Io non sapevo niente di questo fantastico parco. Non male. Quello qua davanti era un cimitero di auto quando siamo arrivati. Sì, quindi sì. Abbiamo detto 2000. La vecchia Mercedes. Esatto, una vecchia Mercedes che ha rischiato. Sì, ha rischiato anche di diventare una fioriera mastodontica. Purtroppo ce l'hanno portata. No, scherzo, non è vero. Adesso è un parco molto grazioso. E quindi 2005 mi sembra che siano proprio andati via gli ultimi da qui. E quindi noi siamo arrivati qua nel 2014, quindi 9 anni. Il primo spazio era il primo spazio dove siamo stati, diciamo, come ZAM, a cui si faceva riferimento prima, è stato vuoto per 16 anni prima che arrivassimo noi. Che avete sicuramente trovato in situazioni molto peggiori rispetto a ZAM. Abbastanza torte. E infatti la prossima domanda mi ha fatto un gancio fantastico. Quali sono stati i lavori, diciamo, più importanti che avete eseguito? Cioè la cosa più difficile, lo sbattimento, e come li avete fatti? Tutti in maniera autonoma? Come li avete finanziati? Insomma, tutto. Se iniziamo a fare la lista dei lavori non finiamo più. Diciamo che possiamo dirvi quando si entra all'interno di uno spazio sociale, in un centro sociale, insomma, quando lo occupi tu tendenzialmente diciamo tieni sotto controllo delle cose, come controlli la struttura innanzitutto, che questa abbia le giuste caratteristiche, ovvero che tra virgolette non cada non pezzi, che non ci sia amianto, che non ci sia una serie di cose, luce, acqua, quindi diciamo che queste sono altre due o tre prerogative che tendenzialmente quando si prende, si occupa uno spazio, si controllano. E poi da lì uno spazio è sempre soggetto a cambiamenti, nel senso che quello che vedi tu oggi non è come siamo entrati noi. Chiaro. Nel senso che, solamente per prendere come esempio la club, c'erano delle pareti di mezzo, sono state tirate giù, e sì, quella è una stanza unica. Se tu prendi lo spazio sotto delle palestre, anche lì, cioè nel senso, la nostra sala concerti, la stavo chiamando Proiva, ma è una sala concerti, prima era una stanza divisa in erano tre stanze, e sostanzialmente entrando lì sotto avevano trovato le vecchie cantine. Chiaro. Peraltro entrando e scoprendo quella stanza lì nei giorni successivi all'occupazione, perché per un giorno era talmente tanto buio che noi non ci eravamo resi conto di una porta in ferro che rimaneva nell'ombra, e un giorno qualcuno è arrivato e ha detto: ragazzi, ma c'è una porta. E allora tutti a correre di sotto, bim bum pam, a sfondare la porta, calci, pugni, piedi di porco, e trovo dentro: ragazzi, cosa c'è? Mi ha trovato l'altra stanza, poi delle loro attività tutte, guarda che facciamo, perché poi uno prima voleva metterci la palestra, piuttosto che la palestra poteva finire al lab tirando giù un pezzo di pavimento che per aspetta Jack. Aspetta Jack, perché in realtà la palestra già c'era all'inizio, quindi era stata la prima cosa che era stata definita, era la palestra, perché aveva già i bagni attrezzati, sì. Era in uno stato abbastanza di abbandono, però era già disegnata, ti ricordi? Che c'era la... Poi sono state spostate delle pareti, però di base la palestra forse è quella che ha subito minori cambiamenti. Sì, quello sì, nel senso che poi nel momento in cui sono trovati subito i sanitari e quant'altro lì, quello era praticamente già segnato, era già scritto che potesse essere la palestra, come poi di fatto è stato. Esatto. E poi io mi ricordo che la prima sensazione entrando era un po' quella dell'esplorazione, tipo nei videogiochi di esplorazione che devi vedere, aprire le porte, quella sensazione lì c'era all'inizio. non sai cosa aspettarti, perché appunto le persone che potevano essere state nello spazio prima di noi chissà dove sono, dove erano all'epoca, quindi non si aveva idea di cosa si potesse trovare in realtà. Ma avete trovato gli spazi completamente vuoti o...? No, nel senso che quello che si accennava prima era che diciamo ogni spazio, ogni centro sociale in quale entri, tendenzialmente trovi delle cose che ti narrano la sua storia precedente. Ti faccio due esempi così. Si parlava dei vigili. Quando siamo entrati qua dentro abbiamo trovato i blocchetti, quelli delle multe, dei vigili. E quindi noi abbiamo passato il primo periodo qua dentro a farci le multe a vicenda. Cioè, avevo l'ignoranza di credere, beccati sta multa, vai, va. Come, non lo so, le vecchie foto degli album delle persone che frequentavano il circolo Carlo Porta. Noi abbiamo scoperto, diciamo, tutte le storie, anche persone che si sono magari ritrovate venendo qua a dirci che lo frequentavano, gli facevi vedere gli album e dicevano, no, ma questo ero io piuttosto che questo lo conosco. Cioè, quindi diciamo che nel momento in cui tu entri, uno spazio riesce a raccontarti quello che è stato precedentemente. E quindi questo ci aiuta anche un po' a ricostruire quello che è stato, per anche poi magari trovare dei collegamenti e dei contatti con le persone che ci stanno attorno, tranne che coi vigili. Per fortuna non è il caso dei vigili. Invece il rapporto con il quartierato, si dice quartierato? No, ma infatti posso aggiungere una cosa giusto per i lavori di ristrutturazione, perché noi ci dimentichiamo dei, nel senso che ovviamente quelli che come dire caratterizzano il luogo quando devi dargli una funzione sono quelli che ti portano un po' più di brio, no? Nel senso che veramente è vero, cioè quello che diceva Elena è che tu arrivi, esplori uno spazio e, come dire, ti lasci un po' influenzare, pensi anche che cosa ci vuoi mettere dentro tu, poi fai tutta una serie di lavori che fanno prendere forma a quello che poi effettivamente abbiamo adesso. Per esempio, è anche vero che ci sono tutta una serie di lavori di ristrutturazione molto meno simpa. La palestra ne sa qualcosa, perché finalmente non solo diciamo la creazione ma anche la manutenzione della struttura porta con sé tutta una serie di sbattimenti non indifferenti, e quindi banalmente i tubi dell'acqua e i tubi dell'acqua sporca sono uno di quelli costanti che ogni tat riportano drammaticamente al lavoro fisico e di fatica il nostro agire politico, pulizie di fetori non indifferenti. Elena ride. Sì, sì, sì, perché proprio questa è storia di vita vissuta, nel senso che la manutenzione di uno stabile comunque non nuovo ti mette di fronte a dei problemi che a casa tua magari non hai, e insomma... Appunto, questa storia del tubo sul parquet della palestra ha creato non pochi problemi. Poi ovviamente ce la racconterai. La storia amena. La storia del tubo. Una storia orribile. Ma... Popoleverà i vostri incubi. La domanda è, il rapporto con il quartiere com'è? Il nostro tentativo è quello di renderlo migliore possibile, nel senso che abbiamo costruito, tentato di costruire anche un ragionamento politico rispetto al ruolo che uno spazio sociale in generale e in particolare come questo possa avere rispetto a rappresentare di fatto una risorsa per il territorio, ed evidentemente questo coinvolge la necessità di stabilire una relazione il più possibile positiva con chi ci sta intorno. In alcuni casi è molto ricettiva, in altri meno, in altri come al solito è di buon vicinato ma che si ferma lì, però insomma fasce diverse di età a seconda di contesti diversi, però abbiamo una discreta eterogeneità da questo punto di vista. Allora ragazzi, io farei una canzoncina e poi entriamo nel vivo con le attività del collettivo. Yeah. LA Calling, Crystal Fighters. Tra una cazzata e l'altra ritorniamo subito in diretta e niente, devo mettere il nostro jingle, se no sotto non si sente niente. E dai ragazzi, quali sono le attività del collettivo? A quale, tra virgolette, pubblico si rivolge? E poi ve ne farò un'altra. Elena, parti col piano sottostante che mi sembra il tuo. Va bene, va bene, va bene. Allora, il piano seminterrato, cioè appunto la palestra, la polisportiva che accoglie una palestra e una palestra d'arrampicata. Una palestra d'arrampicata che funziona per lo più con il principio dell'insegnamento reciproco, per cui non c'è un corso vero e proprio, ma chi si vuole avvicinare all'arrampicata trova sempre qualcuno che spiega o che dà consigli senza avere un corso vero e proprio. E invece nello spazio palestra ci sono come corsi storicamente quello di capoeira il martedì e il giovedì sera, la box il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e poi la new entry di cui mi sto occupando io è il corso di autodifesa per adolescenti dagli 11 ai 14 anni che si svolge il martedì pomeriggio. Questi corsi sono compresi appunto in quella che è la polisportiva popolare ZAM, che è una polisportiva, una serie di persone che cercano di organizzare attività sportiva di livello anche alto, non soltanto amatoriale, con prezzi popolari e andando insomma incontro alle esigenze anche di chi non ha la possibilità oppure sceglie di abbracciare questa filosofia. E riallacciandomi alla domanda precedente di come siamo arrivati, di come sia arrivata a ZAM, in realtà io sono arrivata come famiglia a ZAM perché nel 2012 avevo appena avuto la seconda bambina, andavo al parchetto di Via Algiati e con le due bambine e niente, vedevo ZAM e, da fuori, e incuriosita invitai mio marito, che all'epoca non aveva un corso, a proporsi come insegnante di capoeira, e da lì è iniziata la nostra storia appunto come famiglia dentro ZAM, e da allora niente, siamo legati alla polisportiva e al collettivo, quindi da 10 anni ormai. Quindi ho fatto un riassuntone. E qualche numero? Qualche numero? Di che tipo? Quanti sono gli iscritti? Quante... Ah, allora, il numero è molto variabile. Negli anni ci sono state veramente grandi fluttuazioni nel numero degli iscritti. Considera che il corso di box, secondo me, ha circa una dozzina di partecipanti al momento. Quello di capoeira siamo intorno a... Scusate, madonna! Ok, mi è partita la sveglia, perdonatemi. Quello di capoeira siamo intorno a una decina, però ci sono stati momenti in cui era anche una ventina di partecipanti, e sull'acciaieria, la palestra d'arrampicata, anche lì ci sono state grandi fluttuazioni e non vi saprei dire più o meno quante persone siano entrate e uscite in quell'ambito. E il corso di autodifesa per adolescenti vede 8 partecipanti, e poi c'è una conduttrice che è un'educatrice professionale che fa anche il corso di autodifesa, e poi io le do una mano, io non ho nessuna specifica professionale in questo senso. E come si può interagire e partecipare a questi corsi? Cioè io arrivo, saluto e vado al corso. Tu arrivi, sì, puoi arrivare, salutare e chiedere informazioni a chi ti trovi di fronte. Di solito c'è sempre qualcuno disponibile a darti informazioni, se no c'è una pagina Facebook della Polisportiva Popolare, e poi ci sono le singole, cioè per il corso di capoeira per esempio c'è la pagina che è Capoeira Soluna Milano, ZAM. Comunque in generale trovi sempre qualcuno che ti dia qualche riferimento, un numero di telefono, ti indirizzi sulla pagina, insomma è molto facile recuperare le informazioni, e poi c'è sempre qualcuno di pronto a dare informazioni con un sorriso gigante sul viso. Altre attività? Allora, io proseguo con i laboratori, che ovviamente sono solo una parte delle attività di ZAM, che vive anche di vita propria, diciamo, di programmazione propria. Citando il laboratorio Pop, che come dire, ha avuto momenti, fasi di crescita diverse, e che insomma oramai è un gruppo ben rodato e che ha uno studio di registrazione e un sacco di voglia di fare collaborazioni con chi che sia, per cui per esempio anche in quel caso si fa della musica, e si fa tendenzialmente della musica rap, e si vive della cultura hip hop, quindi si screccia, si fanno quel tipo di cose. Poi abbiamo una sala teatro che è diciamo talvolta utilizzata da compagnie o da attori che hanno bisogno di provare, e talvolta altro invece da un corso che il dopo lavoro stadera, dopo qualche anno di latitanza, è tornato a fare, proponendo sempre dei corsi, come dire, molto attuali. Molto attuali, sì, effettivamente sì, di teatro. C'è un laboratorio artistico che si trova il martedì e il, non mi ricordo, venerdì, infatti, ok, e che è nato da poco, ma che fondamentalmente prevede un'attività di diciamo prevede un laboratorio gestito però da una ragazza che si è diplomata all'Accademia di Brera e che maneggia abilmente tutte le tecniche di dipinto e che quindi le condivide con chiunque voglia in questi due giorni settimanali. E, beh, c'è la radio, evidentemente, che ha tutto ciò che sentite su queste non frequenze, ma su questo link. E, c'è una club che è un gruppo di informatici ribelli che si trova il mercoledì e si trova per fare degli incontri, delle assemblee, delle riunioni. E cosa ci sono? Teatro, l'ho detto. Beh, poi evidentemente c'è ZAM e poi ci sono le brigate di solidarietà. Vuoi dire qualche cosa tu, Jack? O vuoi che continui a parlare io? No, dai. Ok, allora finisco a questo punto il giro dicendo che in questo spazio ha sede anche la brigata di solidarietà Milano Sud, che in questi 2 anni ha fatto una serie di attività, diciamo, di mutualismo e solidarietà e in particolare vede tuttora la distribuzione di pacchi alimentari. Secondo me dobbiamo anche spiegare che cos'è la Brigata di Solidarietà. Infatti, allora, la Brigata di Solidarietà è una realtà nata insieme, per fortuna, a molte altre a Milano, all'interno del contesto del neo arrivato Covid, quindi nel marzo del 2020. C'è stata un'attivazione, una forte attivazione a Milano, abbastanza capillare, devo dire, che ha riunito tanti solidali e solidali, che si dice uguale, che è invariativo, compagni e compagne e antifascisti e antifasciste, che hanno dato vita appunto a queste brigate, quindi a questi gruppi, questi coordinamenti di volontari che agivano della solidarietà e del mutualismo attivamente in un contesto di forte crisi, evidentemente sia economica che come dire di prossimità e quindi sociale, e hanno messo in piedi nel corso del tempo tutta una serie di attività, una fra tutte per longevità la distribuzione di pacchi alimentari, ma in realtà le attività sono state molteplici, andavano appunto da tutto il settore alimentare, quindi anche quello che prevedeva il recupero del fresco invenduto dai mercati e della ridistribuzione, piuttosto che le collette alimentari fuori dai supermercati, e tutta una serie di altre attività, fra cui cito solo perché li citavo anche prima i ragazzi e le ragazze del Dopolavoro Stadera, che sono i nostri attori del cuore, che sono nati come compagnia di fatto all'interno di questo spazio nei primi anni di occupazione e che hanno avuto una vita di grandi successi e meravigliosa. Fra gli altri grandi successi e meraviglie che hanno fatto, hanno dato vita a questa Brigata Brighella, che è un'altra delle brigate appunto che sono nate in quel contesto e che invece ha deciso di, come dire, condividere con il resto della cittadinanza, quella un po' più fragile, quindi quella un po' più esposta in quel contesto, delle fiabe, e quindi sono andati in giro per i cortili delle case popolari a raccontare fiabe ai bimbi e insomma è stata una realtà molto composita. Ci sono state delle collette rispetto alle necessità scolastiche, soprattutto nell'emergenza DAD. Ci sono stati gruppi di supporto psicologici, non qui, dico in generale nella città, ci sono stati appunto gruppi di supporto psicologico con la Brigata Brasaglia, ce ne sono stati, devo dire, parecchi. È stata un'esperienza molto composita. Una di queste brigate ha sede qui a Milano, a Milano Sud, scusate, ovviamente non a Milano, a Milano Sud, in particolare si divide fra qui ZAM e GTA Gratosoglio. E a questo punto ho parlato anche un sacco, però manca ovviamente come dire uno dei pilastri, nel senso che ovviamente tutte le attività di cui abbiamo parlato sono attività che si rivolgono a singole attività laboratoriali, ma ovviamente ZAM ha un corpus proprio e ha una serie di, diciamo, ha una programmazione che esprime al pubblico al di là del presentarsi anche come luogo di socialità, evidentemente. Uno spazio sociale deve essere, ma offre anche, diciamo, sicuramente spazi di discussione con delle assemblee che noi facciamo esattamente aperte, che noi facciamo tutti i lunedì, ma anche evidentemente tutta una serie di eventi ludico-culturali ricreativi, quali il CineZam, che è la domenica per cui ci guardiamo un film insieme. Ci sono tutta una serie di, ci sono state, ci sono, molte sono andate anche in diretta su Radio ZM, presentazioni di testi o libri. Ci sono stati nel corso degli anni cene spesso benefit, serate evidentemente musicali, e domeniche aperte, mercatini, un sacco di cose, diciamo, rivolte a un pubblico vasto. Beh, a gennaio faccio un piccolo spoiler, ma perché è una cosa che in questo momento stiamo facendo tra di noi, ma a gennaio ci sarà, prenderà piede una ludoteca, nel senso che è un progetto che poi nasce anche da un compagno che Elena conosce bene, che è umano. È a casa, vuole dirci qualcosa oppure... Se volete lo recupero, devo andarlo a cercare. No, vabbè, insomma, c'è questa cosa che è nata anche un po' su sua iniziativa, essendo un appassionato di giochi a tavolo, giochi in scatola, che comunque ha trovato una forte attrazione all'interno del collettivo, e quindi grazie a lui ci stiamo addentrando in questa nuova avventura della ludoteca. Mano! Ti sto lanciando... Ciao! Stiamo parlando della ludoteca! Di questo progetto. Stanno parlando della ludoteca. Ciao Mano, stiamo parlando del progetto Ludoteca, se vuoi raccontarci due parole. Ah, ok. Che in realtà è molto embrionale il progetto Ludoteca, nel senso che nasce da poco, perché i ragazzi di ZAM si sono un po' appassionati ad alcuni giochi che avevano, in realtà solamente un paio di giochi, e tra cui Bang, e hanno giocato tantissimo a Bang, e io sono appassionato di giochi da tanto, e quindi sono andato a una manifestazione che diciamo avviene tutti gli anni in Germania, e ho portato giù un po' di giochi nuovi per dare un po' di vitalità all'ambiente. Mi sembra che tutti quanti, insomma, hanno... Abbiamo perso. Ho trovato qualcosa strano di... Eccomi. Sì, ti sentiamo. Dite. Meglio prima, magari torna dove eri prima. Ma una domanda, io quando vengo in radio... Vado dove era Elena prima. Perfetto. Nel frattempo ne approfitto e faccio una domanda. Quando vengo in radio, molto spesso mi capita di vedere dei grandi quantitativi di pacchi di Emergency. È proprio quello di cui ciò che parlava Chiara prima. Quali sono i pacchi alimentari? Sono i pacchi alimentari che, attraverso i quali facciamo le distribuzioni. Quindi Emergency aiuta con la raccolta, e viene con ZAM, è uno dei punti di territorio, esatto, e poi viene distribuito alla popolazione. C'è un ultimo un progetto che, vabbè, Chiara non ha parlato, ma che è quello che interessa tutta la questione dell'internazionalismo, attraverso il progetto di West Climbing Bank, che ha coinvolto diverse persone facenti parte di ZAM, del ghiaccieria, ma anche esterni, attraverso il quale adesso siamo arrivati all'attivo con tre viaggi, ma siamo riusciti ad andare in Palestina a costruire delle pareti di arrampicata, delle vie, quindi in esterna, palestre interne, quindi a favore di tutti quelli che erano la popolazione palestinese, quindi giovani, giovanissimi, ma anche insomma con l'intento anche un po' di farli, diciamo, evadere, trovare lo svago, chiaramente. Ma non solo, insomma, più complicata, però è una cosa che ci ha coinvolto e che continua a essere presente all'interno di ZAM. Ascoltiamo una canzone e parliamo di politica. One Girl, One Boy. Il gruppo si chiama CCC e lo si trova con tre punti esclamativi. Io la faccio partire e mi muto. Ok, dunque, si parla di politica, nel senso che molto spesso la politica si riassume con sei di destra, sei di sinistra. Tutto quello che mi hai raccontato, quindi l'impegno sociale, l'impegno sul territorio collettivo, è già fare politica, ma qual è la politica di Zam? Allora, dunque... cerco di non fare un pippone lunghissimo. Ci provo, giuro che ci proverò. Allora, io direi che sì, assolutamente, come dire, Zam si pone come primo indirizzo quello di essere un collettivo politico, quindi sì, l'idea principale è quella di fare politica. Il tipo di politica evidentemente poi è quello che ci caratterizza e ci identifica, cioè nel senso che ci dà propria identità. Lo dico perché il nostro agire politico nello spazio sociale Zam è la diretta pratica politica del collettivo Zam. E questa pratica politica è un laboratorio di autogestione e di autogoverno del territorio, che è una forte presa politica, cioè una forte posizione politica, nel senso che l'autogoverno del territorio si pone come orizzonte politico e di spazio di libertà e di crescita sociale, evidentemente individuale e sociale allo stesso tempo, e prevede appunto evidentemente una discussione politica, ma prevede anche un farsi pratica quotidiano, che vuol dire prendersi cura di spazi, attività, dei propri bisogni, dei bisogni della collettività, dei bisogni della comunità. Del quartiere, immagino. Quindi del quartiere. Durante l'assemblea vengono definite quelle che sono le linee guida che poi vengono messe in pratica. Allora, diciamo che qualcuno molto più intelligente di me direbbe teoria e prassi. Nel senso che la costruzione è inscindibile, cioè non è un rapporto necessariamente direzionale, per cui noi decidiamo e poi facciamo. Cioè il nostro fare autogestione, il nostro vivere autogestione, che vuol dire io ho un bisogno, che vuol dire che mi mancano gli spazi per fare un'attività, per proporre uno spazio culturale, per vivere la mia vita come la voglio vivere, e quindi mettere in discussione tutta una serie di, come dire, imposizioni e impostazioni sociali, e ogni presa, come dire, pratica e fattiva e incorporata, cioè che esiste corporeamente, non so come dire, che noi facciamo, tendenzialmente ci fa sviluppare un pezzo di ragionamento in più rispetto al nostro essere spazio autogestito, a cosa vuol dire fare autogestione e quindi cosa vuol dire prendersi cura fondamentalmente, e farlo evidentemente. Quindi da questo punto di vista, vivere il nostro territorio vuol dire, non so, che c'è qualcosa di sbagliato che sta succedendo o di qualche bisogno collettivo che non viene esaurito, ci sono delle politiche ambientali che non ci piacciono, ci sono dei fenomeni sociali che ci disturbano, ci sono delle presenze che non tolleriamo, e ognuna di queste cose cerchiamo, come dire, di praticarla, e di praticarla in una condivisione di come dire, di percorso, quindi non come vogliamo noi, ma proviamo a pensare insieme come fare questa cosa. E questo atto di per sé, secondo me, è l'atto politico più forte, diciamo, cioè la magia più forte che succede qua dentro, insomma, io per me personalmente così, poi non so. E secondo me abbiamo capito tutti cosa intendi per le cose che non torneremo, e quindi cioè nel senso non lo chiariamo, ma ci sono anche i rapporti. Innanzitutto mi fa di aver capito che siamo qui, possiamo invitare la chiunque abbia un'idea interessante a cui serve uno spazio per portarla avanti, può trovare in ZAM un ottimo appunto degli spazi per disponibilità. Venite, facciamo cose e parliamo, pensiamo, proponiamo idee. E sto pensando, non so, mostre fotografiche, tutto quello che, nel senso, ci apriamo a qualsiasi progetto che abbia ovviamente dei valori aggiunti. E quali sono invece i rapporti con realtà istituzionali? Penso appunto, mi è venuto Emergency, mi è venuto in mente Produzioni al Basso, ma se posso buttare una provocazione, vi chiedo pure anche quali sono i rapporti con le forze dell'ordine a questo punto, nel senso che la realtà sul territorio è presente, c'è, si sente, si fa sentire, in positivo ovviamente. La questura, comunque le autorità sanno che siamo qui, e perché non intervengono, non dovrebbero intervenire. Se dobbiamo rispondere insieme, vai, prova, cioè come vuoi. Diciamo che provo a tenere col microfono, se no anche Elena. Sì, sì, assolutamente, però un po' a rispondere in termini generali. Ogni spazio occupato, ogni centro sociale produce un contropotere. Questo significa che tendenzialmente noi abbiamo in qualche maniera generato una sorta di chiamiamolo così, forza autonoma all'interno di quello che è il nostro territorio, che in qualche maniera si va a contrapporre, a misurare con quello che possono essere considerati i tuoi antagonisti, ovvero quelle che possono essere le istituzioni e quant'altro. Perché non vengono qua? Questo io non ti so rispondere. Però aspetta, non mi piace tanto il concetto di antagonismo, nel senso che mi piace più vederci come una realtà alternativa e propositiva. Quindi probabilmente il fatto che non intervengono è perché non siamo antagonisti, ma siamo conviventi. Questo è una cosa sulla quale ci potremmo scannare molto, nel senso che sì, è vero, un progetto come quello che viene sviluppato con Emergency è una cosa che viene fatta in collaborazione con un soggetto riconosciuto, possiamo anche definirlo così, istituzionale, non c'è alcun problema. La questione è che nel nostro per agire politico Tendenzialmente si cerca sempre di diciamo creare un tessuto all'interno di quella che può essere la comunità che possa permetterci di avere gli anticorpi in grado di reagire a quello che è un mondo circostante che in qualche maniera ci opprime. In questo senso si parla di contropotere, di costruzione di, chiamiamolo così, comunità. Controinformazione con la radio. Sì, esatto, cioè, e non è sempre per forza un antagonismo che è volto al fino a se stesso. Ecco, Chiara mi ha proprio suggerito la parola adatta in questo senso. Per cui sì, quello che è, diciamo, un rapporto con le istituzioni è proprio dettato dal fatto che dalla nostra parte c'è proprio la costruzione di comunità, di questo contropotere che in qualche maniera ci permette di una proposta alternativa, di fare una proposta alternativa, di avere anche un peso politico, perché poi quando si parla di rapporti tra soggetti politici, cioè, conta anche questa cosa qua, senza stare ad entrarci in troppo discorsi che poi sono complicati, però è questo che in qualche maniera ci permette di poter portare avanti un'attività che sono svolte in maniera autonoma all'interno di quello che poi è la nostra progettualità politica, che poi si estende in tante maniere diverse e differenti, con strumenti che poi possono essere diversi a seconda dei luoghi, dei momenti e di quello che vogliamo andare a fare all'interno della città, del nostro quartiere e della nostra progettualità. No, abbiamo parlato dei murales che sono bellissimi e dobbiamo trovare il modo di introdurli. Elena, vuoi parlarci dei murales? Ma io non sono propriamente esperta. Sono dei murales che periodicamente vengono rinnovati, che portano alla luce la struttura, perché la rendono più visibile, più colorata, più bella, e adornano sicuramente anche il quartiere. Sono eseguiti da artisti incredibili. L'ultimo di cui io mi ricordo, che ho visto parzialmente lavorare, è Infinite, che fa dei lavori straordinari utilizzando solo il bianco e il nero. E poi sicuramente Chiara, che è più dentro al tema, vi può dare maggiori dettagli. Io proprio come profana sono rimasta incantata. Sì, allora, effettivamente questa facciata è abbastanza una novità, nel senso che la prima facciata di questo spazio ha ospitato una reunion di tutta una serie di writers che hanno contribuito. C'erano in particolare tre lavori, che erano uno di Ricky, uno di Irvin e l'altro di Hot in Public, e quelli sono durati, diciamo, per un bel po'. Recentemente Infinite, che citava appunto Elena, ha contribuito alla causa, e insieme ad un altro artista di spessore mega galattico, che è Erika il Cane, hanno regalato due facciate, anzi tre facciate ormai nuove, che sono anche, devo dire, a parte clamorose, una a colori e l'altra, e le altre due in bianco e nero, come diceva Elena, però anche, come dire, di un certo spessore. Il pezzo di Erika il Cane, che in questo momento occupa la facciata più grande e quindi quella visibile da Sant'Abbondio, ha tre scimmiette che potenzialmente sono quella del non vedo, non sento, non parlo, evidentemente, le quali sembrano mimare questo gesto, ma che in realtà, guardando meglio il disegno, ci si accorge come le tre scimmiette stiano accendendo una bomba fatta di libri, quindi rischiarando un po' il buio dell'ignoranza, e lo fanno quindi coprendosi gli occhi e le orecchie, proprio perché stanno lanciando questa cosa, ed è molto bella, è veramente molto bella. Siamo eterni debitori e debitrici a questi due super artists. Ma qual è il segreto di Zam? Come è riuscito a sopravvivere tutti questi anni? Prima cosa. E seconda cosa, come lo si può sostenere, a parte, nel senso, essere presenti e fare cose in Zam? Acido ialuronico e dieta detox. No, non lo so, siamo effettivamente giovanissime, nonostante con qualche esperienza, però molto giovani. Parlo in particolare dei tre presenti, evidentemente. Non io. Siamo. No, vabbè, intendo dire che siamo. Io non sono giovanissimo. E neanche esperto. Anche noi siamo giovani con esperienza. Siamo giovani da qualche anno, semplicemente. Quindi siamo molto bravi ad essere molto giovani. E, no, non lo so come. Diciamo che. Non so se siamo. Cioè, effettivamente non so se mi aspettavo quel famoso 29 gennaio del 2011, che nel 2021 saremmo ancora stati all together, e ne sono ovviamente entusiasta. Penso che, come dire, alla fine la verità è che per buona parte di noi questo spazio è stato comunque un luogo di crescita non indifferente, e penso che tutto sommato siamo riusciti a tenere un buon livello di scambio e di interazione. E forse questo. Ma è anche un po' di cialtronaggine, forse. Forse soprattutto quella. Per quanto riguarda il sostegno, dipende da che cosa si intende. Allora, giusto per rispondere dal più pigro che non ha voglia di alzarsi dal divano, al più coinvolto che invece ha voglia di venire fare cose, nel senso. Allora, rispondo provocatoriamente. Per i più pigri si può, vale il compito più difficile. Cioè, si può contribuire anche fuori da qui a rendere il mondo un po' più simile a quella cosa che speriamo che divenga. Quindi si può non venire qua e aiutare lo stesso, comunque. Se uno è pigro e ha anche dei portafogli gonfi, può venire a finanziare le nostre attività, che comunque sono sempre molto economiche, quindi in realtà ci finanziamo molto poco alla volta. Però questo in realtà, adesso fuori dagli scherzi, ci permette di dire anche come funzionano le attività di ZAM, cioè su cosa si sostengono dal punto di vista più materiale, e in particolare il aiuto. Elena, abbiamo un super ritorno da parte tua. Esatto, ok, adesso scaricate okay. Le cuffie. Ok, allora ok, va bene. Ok, meglio. Niente, dal punto di vista più, come dire, più vile del vile denaro, questo spazio si autofinanzia, il che vuol dire che tutte le attività, si sostengono in autonomia con degli ingressi che fanno, che condividono fra serate, benefit o abbonamenti di qualche genere alle attività, tipo un mini obolo. Sono comunque tutte attività che funzionano come funziona la palestra, era il discorso che faceva prima Elena, e cioè rispetto al fatto che evidentemente non si toglie a nessuno la possibilità di. Prova a metterla. Ma se la metti in muto? No, okay. Dovrebbe mettere in muto Elena. Ah, ok. In realtà. Aspetta, mi metto in muto. Grazie. Voilà. Allora, e quindi cioè funzionano come funzionava Elena, come diceva Elena, e quindi funzionano con appunto dei momenti benefit, quindi delle serate culturali in cui si raccolgono delle mini offerte per proseguire con le proprie attività, si raccolgono tramite la generosità delle persone. In alcuni casi, come il caso dei pannelli fotovoltaici, che è stata una spesa che evidentemente ha è stata abbastanza più consistente, abbiamo aperto una raccolta fondi su produzioni dal basso. E quindi anche persone, per esempio in quel caso, che effettivamente magari non frequentavano da tempo ZAM o che non potevano farlo, ma appoggiavano comunque da distanza i nostri progetti, hanno deciso di contribuire. Più in generale, in realtà, la vera verità è che questo luogo vive prima che di soldi di persone. E quindi venite in ZAM. E quindi venite, chiacchieriamo, sconosciamoci, annoiamoci a vicenda. No, non facciamolo, per favore. Facciamo un sacco di cose belle, impossibile annoiarsi. Ma ZAM è maschio o è femmina? ZAM nasce. In origine, ZAM era. Zona autonoma Milano, ZAM Racail, riferito alle balie francesi. quindi in qualche maniera non ti saprei dire se sia maschio o femmina. In così istinto mi verrebbe da dire femmina. Femmina. Nel senso, la zona autonoma Milano. La zona autonoma Milano. Milano. Sì. E... è queer. È queer. Sì. Io avevo una domanda che mi era venuta in mente. Zam è il gender. Abbiamo questa rivelazione delle 9:34. Quindi abbiamo anche sforato di 4 minuti. Io avevo una domanda, mi è sfuggita, quindi per la prossima. No, in realtà non era una domanda, era una cosa, una come si dice, un buon proposito per il 2022. Noi faremo un sacco di cene in più per autofinanziarci, invitiamo un sacco di gente, speriamo di tornare a fare i concerti, che sono immagino un altro modo per riuscire a raccogliere qualche soldino, e passate a bere le birrette in Zam, mascherine, siamo tutti con le mascherine, abbiamo un sacco di spazio all'esterno e c'è anche il nuovo parco di cui io non ero a conoscenza, quindi vi aspettiamo. E per ora vi salutiamo, vi auguriamo tutti una serenissime feste di Natale, un ottimo anno, e ci sentiamo nel 2022, ragazzi. Ciao. Ciao. Vi lasciamo con, no, non lo dico perché è talmente conosciuta che la riconoscerete tutti. Momento di silenzio, sono spesso al mixer. Buon anno, ragazzi. Ritorniamo un secondo in diretta perché effettivamente Elena ha sottolineato un punto molto interessante. Prego, Elena, puoi togliere il muto e... Ok, il modo più semplice per i più pigri e anche per quelli più squattrinati per sostenere Zam è la condivisione delle iniziative di Zam su tutti i suoi social, su Facebook, su Instagram, c'è la pagina anche della polisportiva, ci sono le pagine dei singoli progetti, per cui quello è proprio per la sagra del pigro e della pigra, è la soluzione migliore. Quindi clicca un like button. Yes.